Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al secondo argomento di questa settimana da approfondire insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Periodicamente parliamo anche di salute, di abitudini spesso cattive che bisognerebbe evitare. Ben trovato Carlo Garofolini, presidente Adico. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. C'è un'abitudine che la tecnologia porta con sé, i cellulari ormai li abbiamo tutti, anche più di uno a testa in media, e i cellulari bisogna portarli con sé, ma dove si tengono? Questo è il problema, visto che quando sono accesi e anche quando non sono accesi sono delle antenne e fonte di passaggio di onde elettromagnetiche. Proprio di questo parliamo ed è un problema che riguarda soprattutto noi maschi. Sì, riguarda soprattutto i maschi, perché ormai è appurato come un utilizzo sbagliato di questi apparecchi possono causare dei problemi legati anche alla fertilità, ed è un problema che secondo noi troppo spesso viene trascurato, perché sin da quando si è ragazzi si ha l'abitudine di conservare questi cellulari, per esempio in tasca dei pantaloni, come molti quando dormono lo conservano anche vicino ai comodini, con tutti poi i rischi per la salute. Facciamo un sondaggio tra me e te, per quanto statisticamente possa contare, tu dove lo tieni normalmente quando sei in giro a piedi? Io devo dire, amico, che da quando ho cominciato ad affrontare questo argomento legato ai danni alla salute che questi apparecchi possono trasmettere negli anni, cerco di impormi almeno l'abitudine di conservarlo dentro il borsellino, come ormai va anche di moda, che i maschietti se le più frequentemente utilizzano. Però è anche vero che molte volte si cerca, quando non si ha tempo o quando c'è sovrappensiero o anche durante il tragitto per andare a lavoro o proprio mentre anche si lavora, avere in tasca dei pantaloni e soprattutto nella tasca davanti, che risulta essere più pericoloso per quanto riguarda la fertilità dei maschi, in quanto queste radiazioni fanno vedere come, e questo caso è un'università importante di Denver a dichiararlo, queste apparecchi in tasca possono causare una mobilità agli spermatozoi, quindi rendere in questo caso i maschietti più sterili rispetto a qualche anno fa. Io lo tengo, se proprio devo spostarmi a piedi, generalmente lo tengo nella tasca dietro, perché davanti mi dà anche fastidio, faccio fatica a tenere anche il portafoglio nella tasca posteriore, ma solo per ragioni di praticità, altrimenti normalmente si trova in altre zone, comunque distante, almeno questo è la mia esperienza, la mia abitudine degli ultimi anni. Adesso che me lo dici, sicuramente non metterò il cellulare nelle tasche davanti, quando mai eventualmente l'avessi fatto. È un problema che riguarda indifferentemente adulti e giovani, o ancora di più i giovani, che magari sono più abituati ad averlo e ad avere anche cellulari più potenti rispetto a quelli di qualche anno fa. Guarda Mirko, praticamente oggi tutti sanno che utilizzare il cellulare senza auricolare può creare danni al cervello. Oggi bisogna sapere che un cellulare utilizzato nelle tasche dei pantaloni può causare una sterilità. Partendo da questo dato, bisogna cominciare a sforzarci ad adeguare un po' il nostro comportamento. Tempo fa, in occasione di un appuntamento che abbiamo dedicato su questo argomento, c'era anche una denuncia dell'Associazione dei Consumatori come questi apparecchi creano dei danni alla salute ed oggi non sono vietati o non c'è un'adeguata informazione, soprattutto nei confronti dei minorenni. Però è anche vero che dobbiamo tener conto che questi smartphone, per esempio, sono sempre in recessione, anche perché utilizzano sempre un segnale internet, perché oggi comunque c'è l'abitudine non solo di telefonare ma anche di navigare, quindi parliamo in questo caso anche di connessione di dati. Però bisogna anche considerare, e l'indagine lo ha fatto notare in maniera molto palese, come ai cellulari anche un tablet, per esempio appoggiato sulle ginocchia, e pensiamo per esempio a quante persone in treno o quante persone anche in divano o a letto hanno l'abitudine di appoggiarsi il computer sulle gambe, per esempio, può determinare questi seri danni alla fertilità, e sono danni di che causano, vanno causati sugli spermatozoi degli uomini, in quanto il rischio che hanno questi è di essere meno mobili rispetto a quello che dovrebbe essere un valore sufficiente per poter essere fertile un domani, che magari una coppia vuole avere dei figli e scopre magari di essere sterili senza capire poi il motivo per cui lo si è diventati. Comodissimi certo gli apparecchi con le onde elettromagnetiche, ma con questi rischi notevoli. Poi c'è anche un altro problema, tu hai citato il treno, magari io il tablet non ce l'ho, ma a pochi centimetri da me ci possono essere due o tre persone che invece ce l'hanno, e un po' come il fumo passivo subiamo le onde elettromagnetiche passive. Certo, questo è vero, però noi dobbiamo ricordarci che un cellulare in tasca equivale un po' anche ad averlo appoggiato sull'orecchio. Il fenomeno è molto più significativo soprattutto nei confronti di coloro che comunque lo hanno, diciamo, a contatto, tant'è che lo studio ha dimostrato come, per esempio, chi ha il cellulare in tasca risulta essere fertile l'8% in meno rispetto ad un adulto normale. Quindi dobbiamo certo ormai pensare di evitare quelle che sono le trasmissioni e le onde elettromagnetiche, è un po' difficile, ma siccome ormai abbiamo scoperto che l'esposizione è legata non solo al tempo ma anche all'intensità, certo per diminuire l'intensità bisogna cercare di aumentare le distanze. Ed è il consiglio più pratico che chiaramente ci sentiamo di condividere. Con questo noi ci fermiamo per questa settimana, ma la prossima siamo ancora insieme per altri due argomenti da raccontare e approfondire insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.